Io ho un debole per gli scioperi dei giornalisti. E non perché mi riguardino direttamente, sapete, sono giornalista anch'io, ma non ho proprio nessuno contro cui scioperare. Però mi piacciono, diciamo così, esteticamente le spoglie, fiorite di testate mai viste prima, il Corriere del Ticino che fa tanto internazionale, o il Corriere Mercantile, che mi ricorda l'infanzia, anche se non è più quello che arrivava quotidianamente in ufficio di mio padre, che faceva lo spedizioniere, con i nomi e le destinazioni di tutte le navi che quel giorno salpavano o arrivavano al porto di Genova. E poi, diciamolo, non è un sollievo da poco, per una volta, sottrarsi alla lettura dei giornali. Questa abitudine compulsiva che ci accompagna da una vita come un antico rimorso o un vizio assurdo, Hegel, come è noto, sosteneva che la lettura delle gazzette rappresenta la preghiera quotidiana dell'uomo moderno. Ma i tempi sono cambiati, l'informazione ha trovato altri canali attraverso cui diffondersi e la preghiera, diciamolo pure, non è sempre un'attività gratificante. Può diventare un obbligo fastidioso e in certe circostanze particolari, per esempio quella di chi legge i giornali oggi in Italia, tende ad essere una pura e semplice perdita di tempo. E poi ammetterete che ci vuole un bel fegato per proclamare uno sciopero come è successo nella settimana scorsa, nel bel mezzo di uno scandalo nazionale che coinvolge la categoria fino al collo, come quello dei finanziamenti Montedison, eh? E non in difesa della propria onorabilità, che è un motivo per cui si può anche scioperare volendo, o in difesa della propria indipendenza professionale, ma in nome dei propri privilegi previdenziali e pensionistici. E voi dite, ma in fondo la pensione è importante per la categoria, ma guardate che i privilegi in nome dei quali si è scioperato sono problemi di una piccolissima parte della categoria. Quella dei giornalisti assunti, garantiti, provvisti di contratto, nonché di alto stipendio, alta pensione e una quantità di benefici marginali, i quali giornalisti, non è notissimo il fatto, ma è scientificamente provato, saranno sì e no uno su dieci, di fronte alle torme di pubblicisti, di freelance, di collaboratori volontari, di collaboratori in nero, di disperati assortiti che quotidianamente mandano avanti per quattro incerte palanche la baracca dell'informazione in Italia. Perché naturalmente il problema non è se tre o quattro colleghi eminenti hanno percepito 500, 300, 200 milioni dei ferruzzi o da chi altro. Il problema è quello di un lavoro giornalistico ripartito ormai tra super privilegiati da una parte e disperati dall'altra, le due categorie dalle quali capite anche voi che non è tanto facile aspettare un atteggiamento indipendente. E i colleghi importanti, quei tre o quattro colleghi importanti, hanno dichiarato che quei soldi loro non li hanno presi. E visto il figuro che vi accusa, siamo dispostissimi a credergli. Ma avete letto le dichiarazioni di smentita, le loro dichiarazioni di smentita? Soldi? Mai presi, dice il celebre Turani, intervistato dal Corriere della Sera il 14 marzo. Nemmeno per Uomini e Business, gli chiede l'intervistatore, alludendo alla rivista di cui l'eminente collega è direttore e credo anche editore e proprietario. Ma figuriamoci, dice lui, virgolette, di fatture dirette da Montedison ce n'è solo una, per un manifesto sul molo di Venezia, 50 milioni fatturati fino all'ultima lira. Per uno come lui 50 milioni evidentemente sono una somma irrisoria, soprattutto se fatturati, ma quanti sono per un cittadino normale? Avete idea voi di quanto ci mette a guadagnarvi 50 milioni un operatore indipendente dell'informazione o un lavoratore di radio popolare? E voi, detto tra di noi, cari ascoltatori della caccia, quanto ci mettete a farvi 50 milioni? E non avete il vago sospetto che chi tratta con tanta sufficienza una cifra del genere non debba stare necessariamente dalla vostra parte? Io personalmente non ho capito bene se quel manifesto Turani lo ha scritto lui, i 50 milioni li ha incassati personalmente come prestazione, o se i soldi li ha avuti perché lo ha fatto pubblicare su Uomini e Business, ma capirete che non fa una gran differenza. Se uno dirige una rivista che raccoglie della pubblicità dalle industrie e contemporaneamente fa il commentatore economico su Repubblica o sul Corriere, capirete quanto i suoi commenti possano essere indipendenti dalle industrie che finanziano la sua rivista. Ora, non tutti sono Turani, certo, ma sappiamo tutti tutti com'è strutturata la proprietà delle aziende editoriali, no? E abbiamo visto tutti a che cosa si riduce l'indipendenza di chi ci lavora quando si arriva al dunque. Ma porca loca, persino Montanelli, che non è proprio l'ultimo venuto nella professione, quando si è trovato in disaccordo politico col suo editore, ha dovuto lasciare il posto, e lui è noto per essere uno che cade sempre in piedi, ma gli altri? Quelli che quando lasciano il posto non hanno altra alternativa che la disoccupazione, con il loro editore, vi assicuro, sono sempre d'accordo. Postilla. I giornalisti, avete sentito, vogliono un sistema previdenziale totalmente privato perché si considerano liberi professionisti, come gli avvocati e i notai. E infatti hanno persino un ordine professionale per dimostrare che lo sono. Ma forse non sapete che è un ordine in cui per entrare a pieno titolo bisogna, ripeto bisogna, essere assunti da qualcuno, perché solo con un contratto di praticante, firmato da un editore, si può accedere agli appositi esami di ammissione all'ordine. Come esempio di libera professionalità non è male. Gli altri, quelli come noi, dall'ordine o sono fuori del tutto, o vi sono ammessi in appositi elenchi ghetto come quello dei pubblicisti, categoria a cui peraltro ci onoriamo entrambi, io e la Came, di appartenere. È composta, per intenderci, da chi collabora regolarmente a giornali, emittenti e simili, senza peraltro essere professionista a pieno titolo. Beh, è una bella contraddizione, no? Per fortuna è in programma una riforma della legge dell'ordine che tale contraddizione intende rimuovere. Ci sono buone speranze che presto ci scaraventeranno fuori tutti. Ne riparliamo al prossimo sciopero.